Lettera inviata a Roma da Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 13 maggio 1545. All'illustrissimo e reverendissimo signore mio Giovanni Pietro Carafa, in Roma. Signore mio onorandissimo, scrivo la signoria vostra per comunicare che il dado è tratto. Reginaldo Polo ha infatti deciso di compiere la sua prima mossa. Come certo la signoria vostra saprà, Sua Santità Paolo III ha dato incarico al Polo di redigere un documento che illustri gli intenti del Concilio, in previsione della sua prossima apertura nel mese di dicembre. Ebbene, proprio oggi ho avuto modo di ascoltare una conversazione tra l'inglese e il Flaminio, nella quale sono stati affrontati i contenuti di tale documento, che porta il titolo quanto mai neutrale di De Concilio. Pare che il primo argomento introdotto dall'inglese sia proprio la definizione della dottrina della giustificazione. Per esporre il problema, egli ha usato toni tenui e apparentemente innocenti e nondimeno tendenziosi, avallando già una qualche compatibilità tra la dottrina protestante e quella cattolica. È quindi ormai certo che il cardinale vuole impegnare, fin dalle prime battute, i padri conciliari nella ricerca di un compromesso con i luterani. La stampa e la diffusione del beneficio di Cristo emergono oggi nella loro vera luce, quella di una strategia ponderata. Da 2 anni a questa parte, il Polo e i suoi amici sono riusciti a diffondere i semi delle loro idee cripto-luterane attraverso quel malefico libello, nonché a scatenare la discussione sui suoi contenuti, e adesso sperano di raccoglierne i frutti a Trento. Che il Dio onnipotente ci protegga da una tale sventura, illuminando l'animo del mio Signore e consigliandogli le indispensabili misure preventive. Baciando le mani della Signoria vostra, alla sua cura mi raccomando. Di Viterbo, il giorno 13 maggio 1545. Il fedele osservatore di vostra Signoria. Q.